2024. La storia. E Piazzale Loreto è questo. Per quanto riguarda la folla degli spettatori, quella è davvero una folla di innamorati, delusi. Che siano gli italiani poi che abbiano fatto queste cose, ma noi siamo veramente dei disgraziati, noi italiani siamo degli esseri. Meglio che non parli, guardi. Elena Curti, classe 1922, è stata accanto a Benito Mussolini fino al momento del suo arresto da parte dei partigiani nei pressi di Dongo il 27 aprile del 45. Per molti è l'ultima figlia naturale del Duce, testimone diretta e talvolta confidente di Mussolini durante i 600 giorni di Salò. Elena Curti racconta di un uomo ormai prigioniero nelle mani dei tedeschi, a capo di un governo fantoccio e ormai avvitato intorno alla guerra senza speranze di Adolf Hitler. Ma per capire dobbiamo fare un passo indietro. Sfiduciato il 25 luglio del 43 dal Gran Consiglio del Fascismo e da gerarchi, arrestato dai carabinieri del re e condotto prigioniero sul Gran Sasso, Mussolini apprende dell'armistizio dell'8 settembre mentre è ancora agli arresti. Ma la sua liberazione da parte di un comando tedesco è solo questione di ore. Ascoltiamo il racconto dello stesso Mussolini rilasciato a Radio Monaco il 18 settembre del 43. C'era nell'aria limpida, attorno alla imponente cima del monte, una specie di aspettazione. Erano le 14 quando vedo atterrare il primo aliante. Squadre di uomini avanzavano verso il rifugio, decisi a spezzare qualsiasi resistenza. Non un colpo partì. Tutto era durato 5 minuti. 12 settembre 1943. Su ordine diretto di Adolf Hitler, Benito Mussolini viene trasportato in volo a Monaco di Baviera, a riceverlo, insieme al figlio Vittorio, un Führer raggiante. Mussolini sorride e saluta, ma è l'ombra di se stesso. E il colloquio con Hitler è drammatico. Ce ne parlano Pierre Milsa e Didier Musiedlak. Duce, adesso dovete ricostruire un regime fascista. Vi metterete a capo di questo governo e insieme vinceremo la guerra. E Mussolini risponde, non è questione, Führer. Per me il fascismo è finito. Mi ha tradito. Hitler gli dice, se è così, voi mi abbandonate. Allora darò l'ordine di radere al suolo Genova, Torino, Milano e qualche altra città. Farò una politica di eliminazione di un certo numero di città italiane. Se voi vi rifiutate di rimettere in piedi uno Stato fascista. Si ritrova in uno stato di fermo. Non ha scelta. Sono i tedeschi che lo hanno liberato. E quindi sceglie di costituire la Repubblica Sociale Italiana. Camicie nere e fedeli di tutta l'Italia, io vi chiamo nuovamente al lavoro e alle armi. La Repubblica Sociale Italiana nasce sotto l'egida della svastica. Mussolini si insedia il 23 settembre 1943. A parlarcene è Mimmo Franzinelli. Lui non è più padrone, nemmeno per la sua immagine. L'esercito del Duce verrà impiegato solo nelle retrovie per la repressione della guerriglia partigiana. E si rende conto che i tedeschi non vogliono un esercito italiano, perché non si fidano. A Salò la giurisdizione tedesca si impone come nel resto dell'Europa occupata anche sulle deportazioni degli ebrei. Per qualcuno è una scelta di campo. Nel 1937 Mussolini, allo stadio di Berlino, pronuncia la famosa frase: quando un fascista ha un amico, con questo amico marcia fino in fondo. E in fondo significa Auschwitz. Non poteva neanche in qualche modo riparare a questo disastro personale, se vuole, no? Perché per dire a me, non si rendono conto gli italiani che io sono praticamente prigioniero. Ma Mussolini non è solo un fantoccio nelle mani di Hitler. Allora cosa fa? Si reinventa un Mussolini repubblicano, un Mussolini filosocialista, Repubblica Sociale Italiana, e quindi un Mussolini che torna alle origini. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola. Sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. Ergo, un Mussolini che rinega se stesso, che rinega i suoi 20 anni di potere, eppure riesce questo mito a imporlo a una parte della gioventù. Solo il sangue può cancellare una pagina così obbrobriosa nella storia della patria. E non dice mai io ho fallito, trova sempre, diciamo, un capro espiatorio. Eliminare i traditori, in particolar modo quelli che sino alle ore 21:30 del 25 luglio militavano talora da parecchi anni nelle file del partito e sono passati nelle file del nemico. Per restaurare l'immagine del Duce è necessario un processo e liquidare almeno 5 dei protagonisti dell'affare del 25 luglio 1943 e all'occorrenza anche Galeazzo Ciano. Ascoltiamo Edda, figlia di Mussolini e moglie di Ciano, e poi Elena Curti. Si sarebbe potuto salvare Galeazzo Ciano, secondo lei? Secondo me sì. Se mio padre l'avesse voluto, l'avrebbe salvato. Avrebbe potuto farlo, ma non l'ha fatto. Appena sono entrata, avevo questa lettera in mano, ecco, questa è una lettera di Edda, una lettera terribile, terribile, ma ha ragione, era il padre dei suoi figli, capisci, capisci. Voleva, sembrava che volesse giustificarsi in un certo modo, non ho potuto fare a meno, i tedeschi sono stati irremovibili, non ha, ossia i tedeschi hanno obbligato Mussolini a far fucilare tutti, compreso Ciano. Per Benito Mussolini la fucilazione di Galeazzo Ciano a Verona, insieme ai gerarchi fascisti che hanno fatto cadere il regime nella notte del 24 luglio del 43, è un dramma personale. Ciano infatti è anche il marito della figlia prediletta del Duce, di Edda. Ma per ricostruire la propria immagine il Duce deve passare attraverso la purificazione del sangue. La guerra, costata all'Italia quasi 500.000 di vittime, ha segnato la rottura definitiva tra Mussolini e il suo popolo. Un padre padrone che ha costruito il suo mito nel corso di 20 anni di regime fascista. Riprendiamo da qui dopo la viabilità. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24 con la storia di Mussolini e la creazione del suo mito durante il ventennio fascista. Ascoltiamo le parole di Benito Mussolini pronunciate a Reggio Calabria il 31 marzo del 39. La nazione è una famiglia e in questa famiglia non ci devono essere figli privilegiati e figli delitti. Padre di famiglia e padre della patria, il Duce è il fautore di una politica che sostiene l'incremento delle nascite e l'etica rurale. Distribuisce personalmente le terre delle bonifiche pontine. Aspetta Giovanni! Mussolini vuole anche dimostrare che il regime ha veramente a cuore il popolo. C'è un forte populismo nel fascismo e questo populismo si manifesta attraverso l'incremento di una legislazione sociale. Avete ascoltato Emilio Gentile. A dettare i parametri dell'etica fascista è la Carta del Lavoro varata il 21 aprile 1927. Previdenza sociale e società organica, dirigismo e ferie pagate. La Carta del Lavoro era una scelta socialista. Pesca dappertutto, pesca nel corporativismo cattolico. Dalla protezione della maternità, dell'infanzia, della famiglia, al dopolavoro per i lavoratori. Con l'IRI si impone il governo dello Stato nell'economia, mentre l'INAI, l'INPS sono il tentativo di creare un moderno welfare. Il fascismo è un nuovo regime sociale, non soltanto un nuovo regime politico. Con la prospettiva, chiaramente, di trasformare l'uomo. Un meccanismo che unisce la demagogia sociale con l'inasprimento del regime dittatoriale nella convinzione che un popolo che obbedisce con entusiasmo è più efficiente, anche per gli scopi militari ai quali Mussolini lo vuole destinare. Vengono travolti da quello che aveva insegnato a Mussolini Le Bon. In una folla mobilitata ed eccitata, l'individuo perde le sue capacità di controllo razionale e si annulla per assorbire l'entusiasmo collettivo. Oggi è una grande giornata per la rivoluzione delle camicie nere, ma occorre che tutti si lascino intenti al nostro lavoro. Il consenso c'era, anche perché le opposizioni non potevano più parlare. C'era anche la legittimazione del re, c'era anche la legittimazione della Chiesa e c'era anche la legittimazione del popolo, ma erano delle legittimazioni aggiunte all'unica legittimazione alla quale lui credeva, ed era quella della forza. C'è sempre anche questo, la paura del ridicolo. Mi diceva, per esempio, sai, io quando poi torno a casa, che sono stato, non so, a fare, mettiamo, un discorso o qualche cosa così, no? Io ci penso e sono terrorizzato all'idea di non aver di essermi comportato nel modo più giusto. Lo credete che io mantengo sempre le mie promesse? Quindi vuol dire che aveva una capacità di autocritica molto grande, che dipendeva da che cosa? Sempre dalla vanità. Una vanità che Mussolini usa per la costruzione del proprio mito, ma anche dello Stato fascista. Un nuovo patto sociale, una nuova figura di padre istituzionale oltre a quella del re e del papa, il duce appunto. Tra persecuzioni verso gli oppositori politici e un confronto a volte aspro con le organizzazioni cattoliche, il consenso del popolo con Mussolini viene confermato nei plebisciti del regime del 29 e del 34. Per la grande maggioranza degli italiani, Mussolini è il modello stesso dell'uomo nuovo. Ci sono tanti parametri, compresi dei parametri sportivi. L'epica dell'uomo nuovo passa anche attraverso questo. Panem et circenses. Ascoltiamo ancora Pier Milza. Ha vinto due mondiali di calcio. Se la nazionale italiana conquista la Coppa del Mondo nel giugno del 34 e poi nel 38, Mussolini non vuole essere da meno dei suoi ragazzi. Ce ne parla Pierluigi Baima Bollone, autore di un libro sulla psicologia di Mussolini. Eccelle nella scherma. Pare che avesse una predisposizione particolare. Già nell'equitazione non andiamo tanto bene. La sua fisicità deve essere trionfante. Mussolini replica la sua immagine. I suoi ritratti campeggiano negli uffici pubblici, come nelle scuole. Ed è lo stesso Mussolini maestro che delinea un Mussolini proteiforme e tuttologo, che si trasforma, è il presidente operaio, è l'intellettuale, è lo sportivo, è il militare. Ha tutta un'equipe è incaricata di controllare le sue fotografie diffuse in Italia in quel periodo. Un Mussolini imposto, l'immagine riflessa di una propaganda basata sul mito della giovinezza che i segni dell'età rischiano di logorare. Arriva a non essere più all'altezza dei canoni che lui stesso ha fissato. Questo è un cruccio per lui. Tra le fotografie che sono state scartate ce n'è una che fa vedere Balbo nel pieno delle forze, trionfante, radioso, e accanto a lui c'è un Mussolini che ormai denuncia i segni dell'età. È su Italo Balbo, quadrunvido della marcia su Roma, 15 anni più giovane, che si appunta l'invidia di Mussolini. Le sue trasvolate oceaniche del resto fanno sognare gli italiani. Mussolini è ossessionato dal controllo dei suoi collaboratori. I rimpasti nel governo e nel partito sono frequenti e repentini. Sentiamo ancora Emilio Gentile. Fra il 31 e il 33 Balbo effettivamente si dichiara pronto ad emarginare Mussolini, se no addirittura ad eliminarlo dal potere, perché è convinto che ormai Mussolini stia prendendo una strada completamente sbagliata, che era quella del fanatismo totalitario, dell'infatuazione per il suo potere onnipotente. Un potere che non ammette confronti. Balbo viene inviato in Libia come governatore. Promoveatur ut amoveatur. La successione del duce è ancora un'ipotesi dinastica. Comincia a sentire un certo invecchiamento e pensa alla successione, che in quel momento è Ciano. Galeazzo Ciano, il marito di Edda, negli anni a venire ministro degli esteri e membro del Gran Consiglio del Fascismo, per molti è il delfino e il successore predestinato del Duce. Ma Mussolini in realtà non ha alcuna intenzione di passare la mano. A 50 anni è ancora l'idolo delle folle, sacerdote delle adunate oceaniche. Mentre uomini come Gramsci, Nenni, De Gasperi finiscono al confino, nelle prigioni del regime o addirittura assassinati come Matteotti e i fratelli Rosselli, il fascismo e il Duce vengono esaltati con un entusiasmo senza precedenti. E anche all'estero Mussolini viene visto come l'uomo che ha pacificato l'Italia e ha aperto la via a una nuova ideologia in Europa. Così Mussolini in un discorso dell'ottobre del 31. Non sono pochi oggi nel mondo che affrontano i problemi della ricostruzione europea dal nostro punto di vista. Non solo tiene in pugno l'Italia, ma è ammirato dal mondo intero. Si vanta a torto ragione di parlare le lingue straniere, va in Germania e parla tedesco, va in Francia e parla francese. I am very glad to be able to express my friendly feelings towards the American nation. Mussolini sembra di essere un politico con cui si può parlare, con cui si può risolvere dei problemi. Margherita Sarfatti lo introduce appunto nei suoi rapporti con gli intellettuali americani. Diviene presto l'amico di Roosevelt. La corrispondenza Roosevelt-Mussolini va in questo senso. Anche la stampa internazionale non esita ad esaltarlo. La rivista Fortune nel maggio 1932 scrive: il popolo italiano si è stretto intorno al suo capo. Non esistono uomini come Mussolini in Europa, il Roosevelt italiano. Era uno degli uomini più famosi del mondo, ma tutti considerati un uomo superiore. Gandhi dice che Mussolini è un uomo superiore, lo va a salutare. Se fossi stato italiano, sarei stato fascista. Era il commento di Winston Churchill del 20 gennaio 1927. Lo stesso Hitler, dopo la vittoria nel gennaio del 33, dichiara: senza la rivoluzione delle camicie nere, oggi non ci sarebbe la rivoluzione delle camicie brune. Hitler amava Mussolini di un amore quasi omosessuale. Giugno 1934, il neo cancelliere tedesco è in visita ufficiale a Venezia. È ancora il tempo degli abiti civili. È la prima volta che Hitler incontra Mussolini e lo ammira profondamente. È il suo modello, il suo maestro, il suo mentore. E Mussolini, che ha avuto piuttosto una buona impressione della vittoria nazista in Germania, si vede arrivare un personaggio che non parla una parola di italiano, che urla quando parla tedesco. Mussolini ha una pessima impressione di Hitler. Ne diffida, ne sospetta il fanatismo. Mussolini, soprattutto, è preoccupato delle mire egemoniche di Hitler sulla cattolica Austria governata dal cancelliere Eugen Dollfuss, suo amico personale. Dichiara al suo entourage: questo tipo è pazzo. Luglio 1934. A un mese dal suo viaggio in Italia, Hitler appoggia un colpo di stato nazista a Vienna. Dollfuss viene assassinato. Per Mussolini è un affronto intollerabile. Roma schiera due divisioni al confine del Brennero e si dice pronta a intervenire militarmente. Ma il dietrofront del Führer non placa Mussolini. Ripartiamo da qui dopo la pubblicità. Mix 24. La storia. Bentrovati su Mix 24. Dopo l'uccisione del cancelliere Dollfuss da parte dei nazisti, Mussolini può ancora proporsi come il paladino dell'ordine europeo, ma non esita a mostrare i muscoli. L'impero e lo spazio vitale non sono una prerogativa solo del Führer. Così Mussolini a Taranto il 7 settembre del 34. Roma non poteva arrivare l'impero prima di aver schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Il culto della romanità è un messaggio sibillino all'Inghilterra. Un nuovo Cesare che parla al suo popolo e avverte potenziali nemici proponendo nuove conquiste. Tutto il popolo popolo italiano risponderà. Io sarò alla vostra testa! Mussolini ha fatto la sua scelta. Gli italiani avranno un impero pari a quello di Francia e Inghilterra, le superpotenze dell'epoca. È una posizione ideologica che a qualcuno sembra già una scelta di campo che lo porterà nelle braccia di Hitler, un uomo che ancora Mussolini sottovaluta. L'Etiopia, d'altronde, è un vecchio obiettivo del colonialismo italiano, ma soprattutto rappresenta l'evoluzione naturale dell'ideologia fascista secondo quel culto della romanità che Mussolini ha costruito negli anni della gioventù con la sua collaboratrice e amante Margherita Sarfatti. Una direzione che la stessa Sarfatti, ebrea, rimpiangerà presto. Così il 2 ottobre del 35. Un'ora solenne sta per toccare nella storia della patria. Oh, Etiopia! Abbiamo pazientato 40 anni! Ora basta! Ed è lì, Margherita. Sono separati solo su un piano fisico, ma resta una donna che ama. Forse l'unica che abbia mai amato. E mentre lui urla «faremo l'impero», eccetera, lei dice «faremo questa guerra e lui la vincerà, mentre noi la perderemo. La farà». E in quel momento comincia l'impero. Ma lei pensa che l'Italia non sia pronta a fare la guerra e che questo lo porterà verso Hitler. E lei sa bene chi è Hitler. Mussolini lancia la sua sfida al mondo. I 52 paesi della Società delle Nazioni impongono sanzioni economiche all'Italia. Ad appoggiare il duce però c'è la Germania di Hitler. Ascoltiamo ancora Emilio Gentile. Lui non è fuori dalla Società delle Nazioni, quindi non partecipa alle sanzioni, ma sotto banco vende le armi all'Etiopia, perché più si creavano difficoltà all'Italia e più Mussolini era costretto ad assumere un atteggiamento contro la Gran Bretagna e contro la Francia. In patria, per quella che la propaganda presenta come una crociata, il duce si affida al sostegno del re e della Chiesa. Quasi una nuova missione come nelle Americhe. E il Vaticano, la Chiesa, aiutarlo con grande entusiasmo. Avete ascoltato Giordano Bruno Guerri, dicembre 1935. In tutta l'Italia la popolazione è chiamata a donare le fedi alla patria. Un matrimonio simbolico con il regime e il suo leader. Ce ne parla Arrigo Petacco. E il fatto che Inghilterra e Francia, accusandoci noi di aggressori, ci imposero le sanzioni, fece incavolare molti italiani, anche non fascisti, perché questi qua si sono presi il mondo e ora ci fanno le sanzioni a noi perché vogliamo un pezzettino di torta. Si è trattato di un crimine contro l'umanità, i bombardamenti con gas asfissianti sui laghi etiopi. È lui che ha autorizzato il generale Badoglio a farli. Autorizzo Vostra Eccellenza l'impiego anche su vasta scala di qualunque gas e dei lanciafiamme. Porteremo al livello massimo possibile della potenza tutte le forze armate. La deriva militarista del duce apre gli occhi al mondo. L'ultima guerra coloniale di un paese del vecchio continente ha dato la spallata definitiva al fragile equilibrio del primo dopoguerra. Alcuni storici anglosassoni sostengono che sia stato Mussolini a dare il via a quel disequilibrio profondo che genera la Seconda Guerra Mondiale. Marzo 1936. Hitler approfitta dell'impasse delle potenze europee per rimilitarizzare la regione della Renania. La Germania cancella definitivamente il patto di Versailles. Ascoltiamo lo storico Matthew Ford. Nell'aprile 1936 il primo ministro britannico Stanley Baldwin dice in privato di Mussolini e di Hitler che sono dei pazzi. Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita. tutto il re! Tutte le guerre sono state decretate e firmate da Vittorio Emanuele III e quindi che lo dicano una buona volta. Vi piacevano le coroncine in testa al signor Vittorio Emanuele III? Non lo nominano mai. Ma è proprio la guerra d'Etiopia a sparigliare le carte, è una svolta politica e ideologica. Mussolini infatti vede con crescente malumore il potere dei Savoia ed è deciso ad andare fino in fondo nella costruzione dello Stato totalitario. Un'accelerazione che si concretizza in un'altra guerra, quella di Spagna, che durerà 3 anni, la prima vera decisione militare che slega il duce dalla corona. Sia Hitler che Mussolini inviano uomini e materiali ai ribelli del generale Francisco Franco. E anche il primo confronto diretto con l'Unione Sovietica di Stalin, che sostiene invece il legittimo governo repubblicano. Mentre le potenze occidentali restano a guardare. Uno schieramento molto simile a quello che si costituirà nella Seconda Guerra Mondiale. Sì, Benito Mussolini! Werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner folglichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. L'imitazione di Hitler, o meglio, più che l'imitazione, il fatto di volerlo compiacere, di dirsi se lo fai Hitler è giusto, vuol dire che ha ragione. Mussolini subisce il fascino della potenza di Hitler, ma è un fascino che insieme gli provoca ammirazione e paura. Dal 1936, quando questa macchina di irregimentazione e di indottrinamento forzato della massa degli italiani diventa più rigorosa, il consenso comincia a scomparire e Mussolini lo sa, ma non allenta il rigore, non allenta l'esperimento. Grandi arriva a denunciare il cesarismo di Mussolini, dice: alla fine Mussolini è diventato una specie di imperatore del basso impero che non tiene più conto della realtà. Non ha nessuno che lo consigli e al quale lui dia retta, è convinto di poter fare da solo. Discussioni che ci furono tra alcuni gerarchi come Farinacci, come Bottai, come Ciano, i quali a un certo punto, dopo il 1938, avevano immaginato di imbalsamare Mussolini come una sorta di papa mummificato, rendergli tutti gli onori del grande uomo, però governare loro. Ma Mussolini questo lo capisce abbastanza presto e non permetterà mai a nessuno di acquistare un potere che potesse contrastarlo e nessuno oserà farlo. Nessuno oserà sfidarlo, quella di Mussolini è l'autorità di un padre padrone che non ammette repliche. Nell'aprile del 38 scardina alle fondamenta il potere costituito del re, facendosi proclamare primo maresciallo dell'impero. Ma nonostante il potere quasi assoluto in Italia, le concessioni di Mussolini alla Germania nel corso del 38 sono per molti l'inizio di una sudditanza psicologica. Il punto di non ritorno del fascismo di fronte alla deriva filo-hitleriana. 3 maggio 1938. Un Mussolini deferente riceve Hitler in visita ufficiale a Roma. Un passo indietro rispetto al re, ma è solo protocollo. Il Mussolini che accoglie Hitler alla stazione Ostiense, costruita per l'occasione, è un Mussolini piuttosto emozionato perché Hitler viene a rendergli visita nel suo feudo di Roma e per lui è un riconoscimento estremamente importante. Nemmeno 2 mesi prima, il Terzo Reich di Hitler ha annesso l'Austria che Mussolini aveva difeso nel 1934. Agli occhi del mondo ormai, fascismo e nazismo non sono più distinguibili. Al momento dell'Anschluss sembra che sia così. C'è una coniugazione fra i due fenomeni, ma non c'è realmente un legame di causa e effetto tra l'Anschluss e l'antisemitismo. A confermarlo è Mussolini stesso alla sua giovane amante, Clara Petacci. Dicono che imito Hitler. Io sono antisemita dal 1921. Dovrei fare come hanno fatto i turchi con gli armeni. Bisogna distruggerli tutti. Dovrei costruire un'isola e metterceli tutti. Dicono che abbiamo bisogno di loro, dei loro soldi, del loro aiuto. Il vecchio motivo dell'antiebraismo, l'antisemitismo marxista, cioè gli ebrei come i manipolatori della finanza internazionale. Bisogna dare il senso della razza agli italiani, perché non creino dei meticci. La svolta della colonizzazione in Etiopia ha posto un problema nuovo agli italiani: la razza. Riprendiamo da qui dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Sull'onda dell'alleanza con Hitler, Mussolini importa in Italia l'antisemitismo. Nella colonia libica intanto è pronto a cavalcare il violento malumore degli arabi in funzione antibritannica. Una politica molto simile a quella di Hitler, che prende contatti con il Muftì di Gerusalemme contro gli interessi inglesi in Medio Oriente. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Le leggi antiebraiche sono l'ennesima testimonianza dell'affermazione del fascismo nei confronti di Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III protesta formalmente, ma nella sostanza firma. Soprattutto da quel momento il Papa comincia a denunciare e a combattere il fascismo. Il Papa è terrorizzato da questo mostro che è cresciuto in Italia e pensa di fare un'enciclica che condanni il fascismo come religione politica. Quali sono le tre parole che formano il nostro dogma? Credere, obbedire e combattere i dogmi di una nuova religione fondata sul culto del duce e sul razzismo biologico. Lo Stato costituzionale ormai è solo un ricordo. Il re è una figura di secondo piano. Pio XI invece morirà di lì a poco senza poter portare fino in fondo la sua opposizione al fascismo. Mussolini adesso è un uomo solo al comando, ma per molti, nonostante tutto, rimane l'ultimo baluardo contro l'espansionismo tedesco. E il suo trionfo nei termini del gioco politico? Direi che è Monaco, settembre 1938. 29 settembre 1938. Benito Mussolini è il promotore della Conferenza di Monaco. La regione cecoslovacca dei Sudeti viene sacrificata alle mire espansionistiche del Führer. Ma il mondo può tirare un sospiro di sollievo. Dà l'impressione di dominare completamente la partita. Il gioco diplomatico, i protagonisti, Hitler, Chamberlain, Daladier, tutti direi ascoltano Mussolini. Non sanno le lingue. Col traduttore non si finiva mai. Così ho preso il comando e ora all'uno, ora all'altro, domandavo e ripetevo. Sì, erano molto deferenti, né messie né mister, solo duce. Fino a Monaco c'è la speranza che Mussolini possa essere l'artefice del mantenimento della pace in Europa. E questo, agli occhi degli italiani, gli dà una popolarità incredibile. Una partita quindi che Mussolini vuole ancora giocare sul piano della diplomazia. L'Italia non è pronta per un conflitto, ma a distanza di 6 mesi dalla conferenza di Monaco, il Führer alza la posta e impone un protettorato militare su tutta la Cecoslovacchia. È un altro smacco per il duce, ma ripudiare l'alleanza non è un'opzione praticabile. Lo spiega per noi lo storico Emilio Gentile. Mussolini probabilmente tentenna fra il 36 e il 39, però di fatto dal momento in cui dichiara l'asse nel 36, l'asse Roma-Berlino, al momento in cui nel 39 sottoscrive il patto d'acciaio, si è legato ormai inevitabilmente, in modo irrevocabile, al carro del nazismo. Patto di alleanza e di amicizia concluso oggi fissa e consacra in precisi impegni politici e militari quella profonda comunione di spiriti e di opere che esiste tra Germania nazista e l'Italia fascista. Il 22 maggio del 39 l'Italia firma il patto d'acciaio con la Germania. Roma e Berlino adesso sono vincolate anche sotto il profilo militare. Eppure, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Mussolini dichiara ancora la sua non belligeranza, un neutralismo che naturalmente sul lungo periodo il duce sa di non potersi permettere. Di certo è l'inizio della fine per Mussolini, coinvolto e poi travolto dalla guerra criminale di Hitler. Ma nel giugno del 40 il Duce è ancora impressionato dalle vittorie sul campo della Germania nazista e, come nel primo conflitto mondiale, ha paura di rimanere fuori dalla storia, ossessionato dall'idea di essere considerato un vigliacco. Sentiamo lo storico militare Giovanni Cecchini. Significava dar ragione a quella frangia di antitedeschi che fino a quel momento aveva soffiato verso odio verso i tedeschi, quindi questa corrente tedesca che era formata essenzialmente dalla monarchia, dal Vaticano, da grossi esponenti del partito fascista e del governo fascista come Grandi stesso, come Balbo. Mussolini avrebbe sbagliato e per un duce che ha sempre ragione sarebbe stato veramente il fallimento più completo. Nessuno gli si oppone seriamente, perché tutti, anche se recalcitrano, anche se hanno dei fortissimi dubbi, come il re, alla fine pensano: ma se avesse ragione ancora una volta lui? La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Quelle poche centinaia di morti che nelle intenzioni di Mussolini gli avrebbero consentito di sedersi al tavolo della pace saranno invece centinaia di migliaia. Tra loro c'è anche il figlio prediletto, Bruno. Sembri dormire. Sul tuo volto qualche macchia di sangue, ma i tuoi lineamenti sono intatti. Ti guardo, mi chino su di te, ti bacio. Non oso scoprirti, ti chiamo. Mi sembra impossibile. Bruno, il mio Bruno, Brunone. E anche lui a un certo momento non poteva che essere prigioniero della propria immagine, perché anche se avesse avuto voglia di piangere di fronte agli altri perché è morto il figlio, in principio un uomo come lui non lo deve fare. Andare a casa a piangere. Già nel 42, dai diari della Petacci, lei scrive: Benito è indeciso se buttarsi dalla finestra o se tirarsi un colpo. Mussolini è la maschera di se stesso. Da luglio 1943 l'Italia è zona di guerra. Il consenso, solo un lontano ricordo. Quando il 19 luglio 1943 cadono le bombe anche sulla capitale, i romani si stringono intorno a Pio XII. Mussolini aveva puntato tutto sulla guerra anche per raggiungere veramente l'onnipotenza, liberandosi magari anche della monarchia, o come minacciava di trasformare la Chiesa Cattolica in una sorta di parrocchia del regime fascista. Invece neanche questo accade e Mussolini da quel momento è già uno sconfitto. Un personaggio non più giovane, provato dagli avvenimenti, e un Mussolini che ormai ha tirato i remi in barca anche dal punto di vista psicologico. Passa dal gioco sociale al gioco solitario, no? E quindi passa a essere un uomo in trance. Relegato a un ruolo di secondo. Mussolini sente l'umiliazione di essere diventato, da uno dei grandi condottieri degli eserciti che avrebbero creato la nuova civiltà, in uno che deve continuamente chiedere l'aiuto al suo alleato. E va detto che Hitler lo lascia giocare, ma sono gli altri che non vogliono più giocare con Mussolini. Grandi è il gran consiglio del fascismo. Nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo che si tiene la notte del 24 luglio, Mussolini lascia votare l'ordine del giorno di Dino Grandi, che vuole rimettere i poteri militari nelle mani del re. Lui sapeva benissimo che c'era questa fronda. Dico, ma perché l'ha fatto allora? Poteva anche non farlo. Credo che mio padre fosse d'accordo col voto, in un certo senso. Penso che mio padre volesse a un certo momento una pace separata. Lui era convinto che il re fosse d'accordo con lui. Negoziare una pace, insomma, fare una cosa di questo genere. E non ha pensato invece che il re era tutto dall'altra parte, che non aspettava altro che di arrestarlo e buonanotte. È un fatto unico nella storia che un uomo, il quale aveva per 21 anni servito il re con assoluta lealtà, sia fatto arrestare sulla soglia della casa privata del re, costretto a salire